ore giriamo una, ridiamo tipo cretini, non rispondo al cell, a volte sto con lei, tempo di guardarti e siedi già senza vestiti, ti amerò per sempre, fuck alle mie ex, e come sto? Non lo so, ho preso bene o preso male, oppure uguale, non lo so. Quante volte mi hai detto ma che palle, sei freddo come un ice bucket challenge. È che un po' mi metto in disparte, è che un po' mi perdo su Marte. La testa gira ancora, la testa tipo Xen Zambai. Se ti vedo una festa non sto più nei box. Tu non fare la bella che non sei lei, no. Quante volte mi hai detto ma che palle, sei freddo come un ice bucket challenge. Già che un po' mi metto in disparte, e che poi ne giriamo una e ridiamo tipo cretini, non rispondo al cielo, a volte sto con lei, tempo di guardarti e siedi già senza vestiti, ti amerò per sempre, fuck alle mie ex, e come sto? Non lo so, ho preso bene o preso male, oppure uguale, non lo so. Tipo boh, è per te, voglio dollar, dollar, dollare col cash, girarci tutta l'Europa, vado in France e rubo il posto al pilota perché fra fanculo a chi pilota, yo. Ho sempre fatto ciò che avevo in testa, se no non stavo qui dove sto. Quello si butta dalla finestra, perché vive come volete voi. Ho fottuto quello Xan, e non mica con le canne, quella morta sembra che da superpoteri, ma è meglio te li togli, ho imparato a fare un personal, stare tutto fatto personale, tu che sai parlare cosa lo fai fa. Quante volte mi hai detto ma che palle, sei freddo come un ice bucket challenge. Già che un po' mi metto in disparte, e che poi ne giriamo una e ridiamo tipo cretini,